Secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei in cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, amici e amiche care, piccoli e grandi, andiamo un po' a vedere insieme cosa ci dice la Chiesa nel messaggio di questa terza domenica di Quaresima, che potrebbe essere chiamata la domenica della conversione, che sta incorniciata in un paio di slogan, se vogliamo chiamarli così. Uno ce lo ha dato San Paolo, proprio alla fine della seconda lettura. Capiamo, piccoli e grandi, no? Chi crede di stare in piedi, stia attento a non cadere. Due cose. Punto primo, bisogna vedere se in piedi ci stai, perché dice chi crede di stare in piedi. Cosa vuol dire fuori di metafora? Chi si pensa che sia buono e santo e che già non c'ha niente da cambiare, lo pensa, poi bisogna vedere se lo è, stia attento a non fare qualche capitombolo. E a queste parole fanno ecco quello di Gesù: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Gesù parla di alcune cose brutte successe ai suoi tempi. Pilato aveva fatto una carneficina, sapete che aveva fatto? Sì, aveva fatto scorrere il sangue con i sacrifici, aveva fatto una repressione di una rivolta appendendo, siccome erano finite le croci, perché la croce ce l'avevano facile i romani, aveva appeso gli ultimi colpevoli alle mura di Gerusalemme, capito? Poi sapete che una volta le città c'avevano le mura, no? C'erano pure, lo vediamo pure qua a Sermoneta. Pensate un po' se sulle mura di Sermoneta vedete qualcuno appeso sulle mura così. Insomma, sono spettacoli terrificanti, no? Oppure un'altra cosa, era cascata una torre e aveva ammazzato 18 persone. Disgrazie, cose brutte. Gesù usa questi fatti per dire: ragazzi, e questo vale anche per i grandi, voi siete sicuri che domani mattina vi svegliate tutti quanti? Ma non cominciate a fare gesti che non si fanno, eh? Siete sicuri che domani mattina svegliate tutti quanti? Sì? Io no. Io no. Perché è tutto quanto da dimostrare. Quando capita una disgrazia, non fate gesti. Se ti capita una disgrazia, non è che quella ti avverte. Capita, se ti crolla una torre addosso, la torre addosso, tu esci legato, stai tranquillo e sereno, dopodiché ti casca una torre addosso, sei morto. Allora Gesù che cosa sta dicendo? Sbrigatevi e fate presto a convertirvi, cioè a entrare perfettamente nelle vie di Dio. Ora, attenzione. Sullo sfondo di questo c'è tutto quanto la vicenda del popolo di Israele e volevo raccontarvi per farvi capire un po' di cose perché Gesù, perché San Paolo dice chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Perché guardate, questo sicuramente riguarda tutti noi, eh? Le persone che si trovano molte volte oggettivamente lontane da Dio, attenzione oggettivamente, quindi non sanno di esserlo, ma lo sono davanti agli occhi del Signore, però non ne sono consapevoli. Ecco, la stragrande maggioranza di queste persone si pensa di stare a posto, Sapete cosa ho detto? In questi giorni si è tornato a parlare della Madonna di Fatima, no? Perché sapete che ci sta adesso la consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Sapete cosa ha detto la Madonna a Fatima? Aprite bene le orecchie, eh? Aprite bene. Che purtroppo all'inferno ci sta un sacco di gente, non è vero che è vuoto, ma quasi tutte le persone che stanno all'inferno, quasi tutte, hanno due caratteristiche. Primo, non credevano che l'inferno esistesse, e secondo, non pensavano che la loro vita fosse meritevole dell'inferno. Mi capite, piccoli e grandi? Queste sono cose serie. Allora, tanti anni fa io a Borgo San Michele, quando ero lì, feci venire una signora. Trovate online, se volete, anche gli scritti di questa signora. Questa è un dentista, una dentista di un paese dell'America Latina che si chiama la Colombia. Si chiama Gloria Polo. Non so quanti di voi conoscono la storia di questa persona. Sapete cosa è successo a questa donna? Apriamo sempre bene le orecchiette, eh? Questa è una storia abbastanza avvincente. Un giorno esce di casa, a proposito di quello che dice Gesù nel Vangelo, e c'era un temporale, un fulmine la prende in pieno e gli brucia praticamente stomaco e gambe, la mette in coma irreversibile. Allora, prima cosa che vi dico di Gloria Polo, dato che adesso va di moda, questo lo dico per i grandi, adesso torna di moda il tema dell'eutanasia. Se voi leggete il libro di Gloria Polo, io ci ho parlato con questa persona, è stata a cena a casa mia, quando è venuto San Michele, ci ho proprio parlato di persone. E quando lei stava in coma, i medici e le persone che stavano intorno dicevano: questa non si ripiglia più, stacchiamo la spina. Lei non poteva parlare, non era consapevole, ma capiva e vedeva tutto. E quando questi dicevano stacchiamo la spina, lei diceva: non v'azzardate, soltanto che non poteva comunicarlo. E sapete perché diceva non vi azzardate? Perché il Signore, in quello stato di coma, le ha fatto vedere cosa sarebbe successo se dal coma non si fosse svegliata. Vi faccio una domanda: sapete che sarebbe successo se dal coma non si fosse svegliata? Lo sapete? Cosa ti ha fatto vedere Gesù? Che se ne andava dritta dritta all'inferno. E lei era una donna benestante, una dentista, felicemente sposata, andava in palestra, si faceva le cerette, i trucchi di piccoli di imbrogli, eccetera eccetera. Non sapeva di avere sulla coscienza una montagna di peccati, tra cui alcuni gravissimi. Ma qui capiscono i grandi, capiscono i piccoli no, la seconda forse sì. Sapete perché il fulmine gli aveva perforato le viscere? Perché portava una cosa che gli adulti dovrebbero capire che non si può portare, perché è uno strumento gravemente anticoncezionale, che lei portava con la massima nonchalance, che si chiama la spirale, che essendo un oggetto metallico ha tirato il fulmine e gli ha bruciato completamente tutte quante le viscere e le ovaie. Voi pensate che poi questa donna si è ripresa e ha avuto un figlio senza le ovaie. Non so se mi capite, questo anello dello testimone è vive e vegeta ancora, sta ancora in Colombia. Lei non pensava che questo fosse un peccato gravissimo e mortale, non l'aveva manco mai confessato. E oltre a questo, aveva anche fatto una cosa grossa quanto una casa, che aveva fatto con la massima nonchalance, perché adesso la legge lo consente. Che problema c'è? Parlo sempre più per i grandi, speriamo che i piccoli capiscono poco di queste cose. L'aborto. Mai confessate queste cose, mai pentita di queste cose, per cui lei si è proprio vista davanti al giudizio di Dio, con Dio gli diceva: bene, tu questo hai fatto e adesso io ti consegno nelle mani di Satana che tu hai servito, perché ti torturi per tutta l'eternità. E lei supplicava: no, no Signore, per favore, fammi tornare in vita, io mi confesso, faccio la brava, mi confesso, faccio la brava, mi confesso, faccio la brava. Alla fine il Signore dice: bene, ti concedo di tornare in vita, riscatta con il tuo futuro quello che hai fatto nel passato, e quello che hai vissuto dovrai andarlo a raccontare in giro e tante volte nel mondo intero. Ho sintetizzato, ma è un libro veramente da leggere, Pensate, un'altra cosa che racconta, pensate, un giorno venne una persona da me a Borgo San Michele, dove avevo detto l'Olimpo, dice: padre, io vado all'inferno. Dico: mamma mia, che è successo? Che ha fatto? Dice: io vado all'inferno sicuro al 100%. Dico: perché? Perché io butto gli avanzi delle cose da mangiare al secchio. Lì c'è scritto, nel libro di Gloria Polo, che quando si va davanti al nostro Signore, il nostro Signore chiede conto anche di un chicco di riso sprecato. Sapevate questo qui? Chi butta la roba al secchio non è che fa una cosa che dice: vabbè, che ce fa? È avanzato, lo buttiamo. La roba al secchio, sapete che non si butta, giovanotti, piccoli e grandi, e questo vale soprattutto per i vostri genitori che vi devono educare. Sapete cosa mi raccontava mia nonna, come facevano quando cadeva un pezzettino di pane per terra? Lo sapete voi grandi di Sermoneta? Sì, si inchinavano in ginocchio, raccoglievano il pezzo di pane, lo baciavano e poi se lo mangiavano, pure se c'era un nemico, che non succede niente, non succede. Se avessero quante cose mi sono mangiato io che erano cascate per terra, a questo punto essere morto 500 volte, insomma, non succede niente, non succede. Allora, capite il contesto, no? Ecco, allora, basta, già l'omelia è finita. Per le prossime due settimane, ci saranno il sabato e la domenica i sacerdoti che mi aiutano. Allora, noi dobbiamo chiedere al Signore, se volete un consiglio, per prepararci bene alla Pasqua, che ci doni un pochino della sua luce. Non dobbiamo mai stare e crogiolarci tranquilli nel dire: ma io che ho fatto di male, non ammazzo nessuno, non rubo, le solite cose, non faccio niente di male, ma che faccio? Non è così, sicuramente non è così. Noi stiamo così fino a quando la luce del Signore, guardatevi in giro, quanto è bella questa chiesa, adesso qui gira, guardate in giro da quella finestra il fascio di luce che entra. Ci sono delle mattine, io ci ho fatto la foto adesso in questo periodo, dentro questa stupendissima chiesa, fatevi un giro, che ci sono i fasci di luce incrociati che entrano da queste finestre, io ho le foto, cioè sono, è qualcosa di spettacolare. Allora noi dobbiamo chiedere al Signore che ci apra le finestre dell'anima e che faccia entrare questi fasci di luce, perché non è che noi non ci abbiamo i peccati, ce li abbiamo sicuri, ma non ne siamo consapevoli oppure non siamo in grado di riconoscerli. Allora, una grande Pasqua è una Pasqua in cui si fa una grande e bella confessione. Sapete che ancora adesso la legge della Chiesa dice, ed è obbligatorio questo qui, non è facoltativo per un battezzato, confesserai tutte le tue colpe al Signore almeno una volta l'anno e ti comunicherai a Pasqua. Per questo che a ridosso del tempo di Pasqua, il giorno di Pasqua generalmente ci dovrebbero essere tante confessioni. Perché? Perché se uno si deve fare la comunione a Pasqua, il momento ideale per fare almeno una bella confessione annuale è prima di Pasqua. Quindi questo è il mio augurio per tutti, anche per me, in modo tale che i moniti del Signore, se non vi convertite per tutti allo stesso modo, o di San Paolo, attenzione a chi crede in piedi e stia attento a non cadere, siano, come dire, in qualche modo recepiti e neutralizzati, e possiamo stare sereni nell'amicizia del Signore e nella consapevolezza del suo perdono. Siano lodati Gesù e Maria.